Sono stato convocato. Sono stato convocato. Che vuol dire che sei stato convocato? Ma come cosa vuol dire? Ma ci vuoi andare? Dimmi che devo girare, io giro. No, devo andare. Se ti convocano tu vai. Possiamo cominciare! Tutti convocati di Giovanni Capuano. La concentrazione del Gallo Belotti. Va Belotti, spiazza Banovic. Il Toro ribalta la partita, avanti 2-1 a San Siro. Abbiamo messo una clausola a 100 milioni, quindi è evidente che non prendiamo in considerazione nessuna offerta al di sotto. Nel momento in cui ci fosse un'offerta a 100, lì non saremmo nella posizione di poter rifiutare, perché la clausola, se il giocatore è d'accordo, ti comporta un'automatica uscita del giocatore. Maselli al cross, l'area di rigore, di testa va Belotti, la prende ancora una volta il Gallo, undicesimo gol in campionato, il secondo alla Juventus. Belotti fa 1-0 e fa impazzire l'Olimpico Grande Torino. Diciamo che Belotti è il nostro giocatore fino al 2021. Comunque sia, è giusto che entro un tempo molto breve dobbiamo decidere tutto col giocatore in particolare, ma da parte mia la volontà di tenerlo è assoluta. Turbe a destra per Benassi, va a chiudere Valetta, Belotti e passa il Torino al Meazza. Ovviamente è importante che un giocatore di quell'importanza rimanga con noi, non perché soltanto c'è un contratto, ma perché ovviamente è felice di farlo, e quindi questa è una cosa che va un pochino verificata. Io credo che sia, comunque sia, avremo il tempo. Eccoci qui, buongiorno a tutti, oggi è il giorno del Gallo. Allora, 800 24 00 24 per chiamare, prenotarvi, intervenire in diretta, oppure 349-238-6666 per i vostri sms e whatsapp, oppure ci potete anche vedere con le pagine Facebook Tutti Convocati trattino Radio 24 e Radio 24 in questa giornata che passerà alla storia, perché probabilmente aggiungeremo le parole più importanti dopo quelle che abbiamo sentito della lunga vicenda tra Belotti, Cairo, il Torino e tutti quelli che vogliono il Gallo. Oggi c'è l'amichevole contro l'Olginatese, che non passerà certo alla storia se non per il vertice tra Belotti e Cairo, nel quale, secondo indiscrezioni giornalistiche, l'attaccante dovrebbe chiedere al presidente di essere ceduto per andare pare al Milan, che è lì alla finestra e cerca di capire se ci sono i margini per fare la trattativa. Saluto subito Mario Giordano, direttore del TG4. Ciao direttore. Ciao, buongiorno. Ma non è un grande tifoso del Toro. Non è un bellissimo giorno. Poi mi avete fatto risentire tutti i gol così e mi fa stare ancora peggio. Sì, ma io credo che in realtà anche i tifosi del Toro possano viverla bene, no? No. Credo proprio di no. Non la possiamo vivere bene, nel senso che è abbastanza, come dire, inevitabile che se, come ha detto il presidente Cairo, che se un giocatore non vuole starci, non ci sta. Però viverla bene è un altro conto, perché noi con Belotti non avevamo trovato solo un bravissimo giocatore, un grande giocatore, giovane, ma avevamo trovato anche, speravamo almeno, io speravo, credo che molti tifosi del Toro sperassero di aver trovato, non voglio bestemmiare, quindi non dico un altro Pulici, però diciamo un giocatore capace di incarnare, di diventare simbolo, che piaceva ai ragazzini, che era diventato, come dire, di nuovo una cosa per cui sognare, per cui persino figlio di Bonucci comprava la maglia, tifoso, andava a vedere, Toro, ecco, sì. Tifoso del Toro. Adesso sarà ancora più contento, no, il figlio di Bonucci, magari. Sì, lui, il figlio di Bonucci, se cambia squadra, sì, io credo che neanche a quell'età lì si debba cambiare squadra, altrimenti, però... Hai ragione, la squadra è per sempre. La squadra è per sempre. Quindi io spero che quell'innamoramento sia per sempre. Non posso pensare che uno possa rimanere Granata solo per qualche istante senza rimanerlo per sempre, però... Ecco, dire che per noi Granata possiamo prenderla bene, no, perché ripeto, non ci viene a mancare solo un giocatore, ci viene a mancare un pezzo di speranza di avere un giocatore simbolo, ecco, di costruire qualcosa che rimanga. Sì, anche se è sempre più vintage, no? Per pensare che esistano le bandiere, soprattutto quando si è in una squadra non di altissimo livello, dove se poi arriva uno forte forte è evidentemente destinato a essere di passaggio. Il fatto è che noi non ci siamo rassegnati a non essere una squadra e non sono tuttora rassegnato a sentirmi dire che non sono una squadra di altissimo livello. Sarà per la nostra storia, sarà per quello che siamo. Noi abbiamo comunque il sogno di poter essere e tornare ad una squadra di altissimo livello. È già stato fatto molto negli ultimi anni, perché dagli ignobili campionati in B e le retrocessioni vergognose, essere nella parte stabile della classifica di sinistra, avere investito su una serie di giovani di grande valore, penso a Baselli, penso a Barreca, che spero che non sia venduto, Presidente, non vendere Barreca, almeno lui, è già moltissimo. Però ecco, io quando sento, credo che tutti i tifosi del Toro in ascolto, quando ho sentito dire, ti hanno sentito dire non di grandissimo livello, abbiano avuto un sussulto nel cuore che ho avuto io, perché sì, sarà come dire, diteci tutto quello che vogliamo, ma noi non ci consideriamo, ci consideriamo la possibilità di poter ricostruire qualcosa di importante. Abbiamo ricostruito il Philadelphia, possiamo ricostruire una squadra che abbia l'ambizione di tornare quella che è stata un tempo. Sì, quella è la nostra non missione. Lo so, io credo che il calcio cambi molto rapidamente. Fa fatica la Juventus con tutto quello che è, ad esempio, per stare al livello delle grandissime d'Europa. Hai ragione al mille per mille. Hai ragione per mille per mille. Tu sai che lavoro a Mediaset, quindi come dire, mi rendo conto che il Milan è stato venduto da Berlusconi. Dicendo non ce la faccio a mantenerlo ai livelli che, quindi figuriamoci se non capisco tutti i discorsi razionali, però siccome il calcio ci sono tanti discorsi razionali, io sono pronto a farli tutti, ma è soprattutto un discorso del cuore, è una questione di cuore. Quando tu mi dici squadre non di grande livello, io mi sento un sussulto nel cuore, perché certo, penso alla nostra nostalgia, penso a Valentino, penso ai grandi, e mi sento il calcio cambia, ma noi ci sentiamo e dobbiamo mirare a tornare di grande livello. Allora leggo qualche messaggio che è arrivato 349 238 6666. Scrive un amico: se Belotti è ufficiale al Milan, no, guardate, secondo le ricostruzioni giornalistiche oggi pomeriggio Belotti incontra Cairo, che da un mese continua a dire aspetto che lui mi dica cosa vuole fare, e dovrebbe dirgli: Presidente, voglio andare via. Evidentemente a quel punto il Milan è in prima fila. Attenzione però, perché Kalinic questa mattina, dopo poche ore, ha di nuovo abbandonato il ritiro della Fiorentina, e potrebbe essere che non ci torni mai più, e a quel punto c'è sempre il Milan, e siccome non ne prende due, oddio, il Milan ci ha abituato a tutto in quest'estate, però ragionevolmente non ne prende due, quindi non è ufficiale Belotti al Milan. Scrive un altro amico che si chiama Carlo da Granata: vorrei Belotti a vita, ma se va via sarà solo un traditore, perché l'amore è fatto così. Sarà un traditore se va via? Ma il traditore è una parola grossa. Certo, è stato che solo due anni, cioè io capisco che i tifosi del Toro si siano legati molto a Belotti, perché è perfetto per legarsi, come immagine, come physique du rôle, quello che ha fatto soprattutto nell'ultima stagione, ma non è troppo per pensare che se sceglie di andare da un'altra parte a proseguire la carriera a un livello più alto è un traditore? E ribadisco, vedi, questo tifoso interpreta esattamente quello che è il sentimento, credo che sia mio, credo che sia di buona parte dei tifosi che ci stanno ascoltando in questo momento. Una cosa sono le questioni di testa, per cui se mi dici a 100 milioni un giocatore che non vuole stare lo devi vendere, certo che lo devi vendere, che devi fare? Non è che lo puoi, anche se la clausola vale solo all'estero, tutto quello che vogliamo. Fa bene Cairo a considerarlo comunque sul mercato, no? Ma certo che fa bene, perché se il giocatore vuole andare via e tu non lo puoi tenere. Detto questo, e tu mi dici due anni, sì due anni, ma un giocatore che è arrivato e sentito per il tipo di gioco che ha, per il fatto che unisce la classe e la tecnica, io prima ti ripeto un po' bestemmiando, adesso ne farò arrabbiare qualcuno di tipo del Toro, ma a noi, almeno a me, ha molto ricordato il Pulici, perché unisce questo impeto, questa l'anima granata di buttarsi, di riflettere e non sia sempre la classe. Ed è stato un giocatore che, come dire, è immediatamente stato capace di diventare simbolo, di far innamorare per queste sue caratteristiche. Quindi, anche se a due anni era diventato in un Torino che si stava ricostruendo, che si sta ricostruendo, dice: abbiamo trovato il nostro giocatore attorno a cui ricostruire una nuova grande stagione. E nel momento in cui va via, è certo che uno ci rimane male. Io l'altro giorno, quando lui è sceso in campo nella prima amichevole di stagione con la fascia di capitano e nello stesso tempo aveva rifiutato, comunque non aveva fatto le foto ufficiali con la maglia della squadra, io ci sono rimasto male. Non uso la parola traditore perché non mi piace, però ci sono rimasto sinceramente male. Capisco la maestria di questo tipo, però è quel modo di staccarsi un pezzo per volta, quel modo che c'è adesso, che si usa sul mercato. Adesso c'è il traffico, quindi saluto Mario Giordano. Voglio però, ma per capire, poi davvero il calcio è una cosa meravigliosa ed è la sintesi di tutto. C'è un amico che non si è firmato, adesso tolgo le parolacce, però ci ha scritto: andate a leggere la storia del Toro prima di parlare di noi. E c'è un altro che ha scritto: siete il Torino, siete una squadretta, che cosa pretendete? Questo per dire che poi c'è tutto che si lega. Come va a finire? Dai, dimmelo in un flash. Domani mattina Belotti si sveglia sul mercato, capitano del Toro. Io credo che a questo punto sia difficile che resti capitano del Toro, quindi andrà al Milan, a meno che non arrivi ancora un colpo sorpresa all'estero, perché potrebbe essere che ancora qualcuno si muova. Sì, c'è chi dice Belotti al Real Madrid, esatto, Alessandro da Quinto, ma chi lo sa? Real Madrid, Paris Saint Germain, sentite di ogni. Sì. Però io credo che a questo punto la sua volontà mi sembra che l'abbia espressa in modo chiaro, e di fronte ai soldi, che se ci sono i soldi e se c'è la volontà del giocatore di andare via, che possiamo fare? Siamo abituati a soffrire. Lo e si saluta, carissimo direttore. Soffrire. Lo si saluta e si aggiunge un altro tassello alla teoria che non esistono più le bandiere. Lo si saluta, si soffre. È la nostra sofferenza. E si aspetta Simeone, perché arriverà lui. Grazie direttore. Grazie, buona giornata. Grazie Mario Giordano. Allora vi ricordo ancora i nostri contatti: 800 24 00 24, per intervenire in diretta. Parliamo anche, intanto ci chiediamo anche se serve più Kalinic o Belotti al Milan. Poi parleremo anche della questione Schick, cioè è la Juve che l'ha scaricato, ha fatto un affare, sta facendo un affare l'Inter. Poi c'è la vicenda della numero 19 del Milan. Secondo me deve andare a Bonucci tutta la vita ed è una polemica che non esiste, però voglio sapere che cosa ne pensate. E poi stiamo ovviamente seguendo il Tour de France con l'ultimo tentativo di Aru di raggiungere Froome. 800 24 00 24, oppure 349 238 6666, pagine Facebook Radio 24, tutti convocati trattino Radio 24, non ve lo dico più. Traffico, torniamo subito. Convocati. Tutti convocati. Leggo un po' di messaggi. C'è chi scrive che i tifosi del Toro vanno capiti, hanno ragione. Di Gigi Riva ce n'è solo uno, ce n'è stato solo uno. Questo è Antonio. Poi sarà entrato nei cuori dei tifosi del Toro, però Belotti ha sempre dichiarato di essere tifoso del Milan, il suo idolo è Shevchenko, ditelo ai tifosi del Torino, glielo diciamo. Però è anche legittimo che chi da bambino ha tifato un'altra squadra possa diventare bandiera del club in cui gioca, in cui vive. Poi Mario, Belotti non è traditore, non ha certo sposato il Torino, che è una piccola squadra, e non ha pretese. Non esageriamo. C'è Massimo da Cagliari che chiede se Verratti può tornare in Italia adesso che ha cambiato procuratore. Ieri sera l'annuncio che ha preso Mino Raiola, la risposta è no. Gianni De Biasi, ciao. Ciao. Come va? Buongiorno, tutto bene? A tutti. Tutto bene, grazie. Tu cosa consiglieresti di fare a Belotti? Meglio provare a diventare la bandiera del Toro o almeno a restare lì nell'anno del mondiale, mettiamola così? Oppure è giusto che se crede di essere all'altezza vada a fare un'altra esperienza a un livello più alto? Io credo che ci sia una questione di ambizione e di quello che lui vuole veramente, chi lo sa. È chiaro che ognuno ambisce nell'ambito del proprio mestiere, del proprio lavoro, a migliorarsi sempre. Se ha una piazza più importante del Toro, lui magari la prenderà in considerazione. Quello che mi fa piacere di questo ragazzo è che è sempre stato un ragazzo di grandissima serietà, uno che ha sempre guardato al sodo e non ha mai seguito gli andazzi del momento. Io credo che sia un ragazzo con la testa sulle spalle, grande umiltà, e che se va via dal Toro è perché ha fatto una scelta per il suo futuro, e credo che debba essere comunque rispettato per le scelte che uno fa. È chiaro che poi i tifosi dal canto loro vedono solo esclusivamente un colore, o chi rosso-nero, o chi granata, e quindi ognuno è libero di pensarla come meglio. Sì, ma più in generale credo che vadano rispettate le scelte di tutti. Allargo ad esempio il discorso a Bernardeschi. Ieri o l'altro ieri c'era un'intervista a Prandelli sul Corriere della Sera dove diceva a Bernardeschi di pensarci due volte prima di lasciare la Fiorentina perché la Juve rischia di fare la riserva, e a Belotti che nell'anno del Mondiale forse la soluzione migliore sarebbe quella di restare al Toro. Io credo che se un giocatore ha talento e questi due ce l'hanno, se la sentono e c'è una sfida che li stuzzica, è giusto andare. Esattamente, io credo esattamente che se uno c'è una sfida davanti debba cercare di affrontarla senza timore e di dimostrare quello che vale in una realtà dove magari hanno più difficoltà sia l'inserimento che perché hanno magari anche una concorrenza maggiore di te. Ma secondo te al Milan serve più Belotti o Kalinic? Oddio, non lo so e non voglio neanche entrare in questi discorsi. È un bel cadere, comunque scegli un bel cadere. Sì, sì, sì. Allora, diciamo che Belotti è un giocatore che in questa ultima stagione ha dimostrato di essere un realizzatore implacabile e che sa adattarsi a qualsiasi tipo di situazione dal punto di vista tattico, quindi bravo nell'attaccare la profondità, ma molto bravo anche dentro l'area. Di testa quest'anno ha fatto parecchi gol su cross dalle fasce laterali. Io credo che lui sia una garanzia da questo punto di vista, e mi sembra un ragazzo generoso, determinato e che gioca per la squadra. Questo è l'aspetto più importante. Kalinic, altro giocatore con caratteristiche leggermente diverse, ma di grandissima affidabilità e qualità. È il giocatore perfetto che fa innamorare gli allenatori, Kalinic. Kalinic fa innamorare gli allenatori, ma magari anche Belotti. Magari fa qualche gol in meno di Belotti, però... Sì, però se devo essere sincero, io mi innamoro anche di Belotti. Sono innamoratissimo di lui. Gallo, sì. E sono innamoratissimo di lui, uno, perché ha una forza dirompente, poi perché, come dicevo prima, è uno che va al sodo, che va al concreto, ed è un giocatore che mi piace tantissimo. Ti sorprende che a Napoli sia stata sdoganata la parola scudetto? Oggi c'è sulla Gazzetta l'intervista di Insigne che addirittura dice: ho la schiena libera per il tatuaggio dello scudetto. La Juve si è probabilmente indebolito, ha perso un punto di riferimento con Bonucci, noi giochiamo un calcio fantastico, è arrivato il momento di vincere. Allora, io non so se la Juve abbia perso qualcosa. Di sicuro credo che se uno vuol vincere qualcosa deve pensarlo e possibilmente cercare di trovare le strade per realizzarlo. Se non ne parli mai e ti nascondi, credo che difficilmente tu raggiungi gli obiettivi. Questa almeno è la mia filosofia. Se tu vuoi arrivare a raggiungere qualcosa, devi fare qualcosa di diverso da sempre, ma cominciando da pensarlo fortissimamente con la propria testa. Ma hai la sensazione che sia un po' più vicino il Napoli alla Juve? Il Napoli è una grande squadra. Il Napoli è una grande squadra che ha trovato una grandissima squadra davanti, che ha l'anno scorso e negli ultimi anni sparagliato tutti, perché ha la forza che le deriva da un ambiente che è abituato a vincere e che sa come si fa, tra virgolette. E dall'altra parte invece c'è un ambiente che è molto carico, che ha molto entusiasmo e che ha voglia di imparare da chi vince da qualche anno. Quindi credo che Sarri quest'anno abbia forse qualche responsabilità in più dal punto di vista delle responsabilità di quello che la gente gli chiede, però nel contempo credo che abbia anche la competenza e le qualità per poterlo fare. E ha anche 2 anni di lavoro in più alle spalle che non ha nessuno. E poi De Laurentiis lo ha accontentato. Tanti lo criticano perché non fa il grande colpo. Secondo me l'idea di dare continuità al Napoli vale come aver preso un top player sul mercato. Sono d'accordo, non è facile intervenire sul Napoli. Napoli è una macchina quasi perfetta, rodata, perfetta, che probabilmente è perfettibile come tutte le cose, ma credo che partendo da dentro si possa perfezionare ulteriormente questa macchina, e torno a ripetere, principalmente lavorando sulla testa. Poi sottolineo che Sarri è in montagna da 20 giorni, mentre gli altri girano il mondo e giocano aereo, evento commerciale, poi aereo, poi giocano. Sarri da 20 giorni è lì, e io ho l'impressione che questo su una stagione lunghissima poi possa anche fare la differenza. Però approfittavo di Gianni De Biasi per fargli sentire Cristian Panucci, nuovo CT dell'Albania ieri. Gianni De Biasi ha fatto un lavoro straordinario ed è giusto riconoscerlo. Lui ha fatto la storia qui in Albania, però adesso inizia un qualcosa di nuovo. Se nel campionato albanese ci saranno dei giocatori bravi che meritano la nazionale, verranno in nazionale, assolutamente. Non ho figli né figliastri, ne ho uno solo in Italia di figlio. Non ho sicuramente paura di bruciarmi, ma è un grande privilegio, un grande onore essere il CT dell'Albania. Vi siete sentiti tu e Cristian? Sì, ci siamo sentiti. Che consiglio gli hai dato? Ma io non ho dato tanti consigli, dovremo incontrarci prossimamente De Viso, parleremo un po' della situazione perché lui ha visto molte partite della nostra squadra, però magari non conosce dal punto di vista caratteriale alcuni calciatori, come è normale che sia, però quello che mi piace è che ha una grossa motivazione, ha voglia di far bene, è un ragazzo che ha avuto un'esperienza, parlo di ragazzo all'interno di allenatore perché è molto giovane, però è uno che ha tanta voglia di far bene, è andato lì perché voleva fortissimamente questa opportunità, questa esperienza e credo che si sia calato nella parte nella maniera migliore. Si può scommettere anche su qualcuno che ha poca esperienza, sì. Si può scommettere, io credo che Cristian ha vissuto Real Madrid, Chelsea, Roma, Juve, Milan, Inter, non so se gli serva altre opzioni. È stato con Capello per 2 anni e credo che sai che ci sono i cultori della gavetta. Ma sì, è vero, ma lui ha fatto una piccola gavetta, l'ha fatta a Livorno, l'ha fatta a Terni, però non sempre riesci a fare le cose che tu vorresti. Nel calcio c'è la possibilità di poter scegliere e lui l'ha in questo momento la possibilità di scegliere, perché facendo il selezionatore decidi tu chi sono i giocatori che fanno per te. Credo che sia più facile il lavoro che gli si prospetta davanti. C'è anche più tempo per prepararsi. Esattamente. Abbiamo la borsa, quindi sto per lasciare Gianni De Biasi. Volevo sapere, noi ci siamo sentiti un mesetto fa, dopo l'addio all'Albania. Ci hai raccontato, voglio un bel progetto all'estero, magari una federazione, non ambisco a tornare in Italia. Ti ha chiamato qualcuno? Sì, qualcuno mi ha chiamato, ma... Non è ancora il progetto giusto? No, è anche il progetto giusto, ma lasciamo perdere perché manca ancora un mese e mezzo più o meno perché le cose si possano concretizzare. Noi siamo qui e ci risentiamo quando vuoi. Okay. Ciao Gianni, grazie. A tutti. Ciao, grazie a te. Ciao, Gianni De Biasi. Allora, ci sono Marco dalla provincia di Caserta, Gianmario da Lodi, ne facciamo uno. Poi c'è la borsa, Marco. Ciao. Eccoci. Volevo dire, questi sono milanista, naturalmente sono contentissimo di quello che stiamo facendo, che va al di là delle più grosse previsioni. Io ero uno pessimista che dicevo questi cinesi chi sono e che i soldi non ci stavano, invece fortunatamente ci sono. Però volevo dire una cosa, visto che stiamo facendo tutti questi acquisti, non c'è il pericolo, cioè oppure calcolato chiaramente, che stiamo facendo questi acquisti perché sanno che ci bloccheranno il mercato per almeno 2-3 sessioni, perché è una cosa fuori dal che comune, cos'è eh? Questa cosa? Tu dici come Real Madrid, l'Atletico Madrid, il Barcellona, nel senso queste che sono cose loro diverse. Sanno che il Milan dovrà andare dall'UEFA a fare i conti poi. Quindi loro dicono: intanto noi ci tuteliamo, facciamo tutti questi acquisti, perché molto probabilmente quando andiamo dall'UEFA, loro ci diranno: guarda, tu stai fuori parametri, non puoi fare più il mercato perché hai sforato, e quindi loro si stanno portando avanti con lavoro. Penso è un rischio calcolato. Marco, il Milan andrà dall'UEFA e tratterà come rientrare nei parametri rispetto all'Inter e rispetto a tutti quelli che hanno preso le sanzioni, ha un vantaggio, cioè ha cambiato proprietà e quindi se fa l'accordo lo fa su basi diverse, meno stringenti, almeno per 2, 3, 4 anni, poi vedremo che accordo sarà. È evidente che questa è l'ultima estate sotto i riflettori dell'UEFA e quindi probabilmente Fassone e Mirabelli stanno un po' spingendo sull'acceleratore. Poi nessuno si aspettava un mercato a 200 milioni, il Milan lo sta facendo e la scommessa, la grandissima scommessa che tiene in piedi tutto sarà riuscire ad entrare in Champions League. E quindi questa è una scommessa. Gianmario lo facciamo dopo la borsa. La borsa torniamo subito. Tutti convocati. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Tutti convocati. Il mercato è lungo, ci sono delle situazioni che ancora si devono definire. Mi auguro che vengano definite il prima possibile, sia quella in uscita sia quella in entrata, ma stiamo lavorando bene, questa è la cosa importante, questa è la cosa in cui in questo momento dobbiamo essere molto concentrati. Questa è la voce di Pioli. A proposito, Bernardeschi oggi ha smentito tutte le dichiarazioni attribuite al padre, secondo cui per Bernardeschi sarebbe un sogno andare alla Juventus e ripetere le gesta del suo idolo Roberto Baggio. Poi qualche messaggio. Moreno da Vicenza: ricordate a tutti che essere tifosi del Toro è una vittoria grandissima, andatevi a leggere il libro di Eraldo Peci, il Toro non può perdere. Poi ancora, se Keita e Iniesta sono due nomi per la Juve, secondo me Iniesta no, Keita adesso cercheremo di approfondire. E poi ancora, occhio alla Juve su Belotti, ora che non c'è Schick, credo che Belotti sia improponibile in una squadra in cui c'è Higuain, che giocherà ovviamente quasi tutte le partite. E poi ancora ci si chiede un approfondimento sulla vicenda Schick, adesso lo facciamo. Gianmario da Lodi. Gianmario, buongiorno, grazie di avermi richiamato. Vai. Senta, è l'ultima chiamata che avevo fatto diversi mesi fa, io ero molto critico nei confronti dei nostri fratelli della Valle, mentre voi dicevate, ma insomma questi tifosi viola cosa vogliono di più. Ecco, vorrei sapere cosa ne pensate adesso, visto che quest'estate la squadra insomma, viene smantellata. Viene smantellata, questa è una cosa. Aspetta, ti rispondo e poi fai la seconda domanda. La mia risposta è che i Della Valle in 13 anni hanno messo nella Fiorentina 220 milioni di euro, hanno commesso certamente una lunga serie di errori. A me non piace come stanno smantellando oggi la Fiorentina, perché un conto è partire con un nuovo progetto, un conto è svuotare di fatto tecnicamente una squadra. Però credo anche che i fiorentini abbiano pensato di poter vivere al di sopra delle proprie possibilità. Non è più il calcio di 30 anni fa. Secondo me la Fiorentina, che arriva a quarta, più volte ha già fatto un miracolo. Prego Gianmario. Sì, io le contesto proprio questo, perché mi dà un po' fastidio che voi considerate la Fiorentina, il Torino, squadre di secondo livello, così. Per la storia, per i giocatori che sono passati, per il tifo che... Ma noi hai abbiamo, ragione Gianmario, per la storia, ma purtroppo, ma io dico purtroppo, non mi piace questa cosa, purtroppo le cose oggi stanno cambiando e queste distanze si stanno aumentando. Lo chiediamo anche a Dario Donato, collega di Premium Sport. Ciao Dario. Ciao Giovanni, la domanda si arrabbiano, qual è? I tifosi del Toro, della Fiorentina, sì. Ma quelli della Fiorentina hanno perfettamente ragione, io sono perfettamente d'accordo con te, non mi piace assolutamente come... si sta smantellando la squadra. Tra l'altro loro un mese fa, i Della Valle, i fratelli Della Valle, hanno detto che se fosse arrivata l'offerta giusta avrebbero ceduto la squadra, evidentemente per troppa pressione e critiche da parte della città. Però mi pare che la stiano depatrimonializzando in maniera netta, vendendo tutti i giocatori. Poi questa è una scelta loro, ma onestamente non mi aspettavo che potessero vendere tutti i giocatori chiave in questa maniera. Quindi se fossi un tifoso io credo che sia e debba essere lecitamente arrabbiato, senza sì, sconfinare. Però trovare altri come Della Valle non è semplice, perché ripeto, poi i numeri sono lì, in 13 anni ci hanno messo oltre 220 milioni di euro, soldi veri, nella Fiorentina. Ma certo, ma sono perfettamente d'accordo. La dimensione è quella. Oggi, io so che questo fa arrabbiare i tifosi, perché si ricordano gli scudetti, si ricordano la grande Fiorentina, il grandissimo Toro, noi abbiamo massimo rispetto, oggi però è difficile. Ma hai ragione, è perfettamente chiaro il tuo concetto, è difficile. Facciamo il calcolo però a fine mercato di quanti ne incasseranno dalle cessioni, così poi vedremo in una botta sola quanti ne incassano e quanti invece ne hanno spalmati in oltre 10 anni di presidenza, perché questa è comunque è un grosso difficile. C'è differenza tra investire sul lungo periodo e c'è molta differenza tra incassarne tutti in un breve arco temporale. Detto questo, ribadisco il mio concetto senza nessun problema. Non mi piace come si sta trattando la Fiorentina, poi qualche giocatore evidentemente arriverà, però il mancato rinnovo di Gonzalo, Borca Valero, adesso Bernardeschi, Kalinic che un giorno ha problemi familiari, l'altro giorno gli entrano i ladri in casa, anche qui. Voglio dire, noi ci atteniamo e dobbiamo credere a quanto viene comunicato dalla società, ma non mi sembra così serio. Per quello che riguarda il Toro, Cairo fa quello che può. Cairo è un investitore oculato dappertutto, i tifosi lo dovrebbero sapere, è un editore tra i più oculati in assoluto e per questo motivo è anche tra i più bravi, e questo bisogna sottolinearlo. Non ci si può certo aspettare che Cairo vada a pagare la clausola rescissoria di Neymar piuttosto che di qualche altro giocatore. Ha fatto fare buoni risultati al Torino, ma la dimensione è quella, non è uno sceicco, non è un petroliere, non è un raffinatore, quindi non credo che i tifosi possano avere delle ambizioni molto diverse da quelle che lui è riuscito a regalare fino ad adesso. Non penso che siano squadre di Serie B, per rispondere al telespettatore. Però hanno ormai degli orizzonti differenti rispetto alla Juventus, vedremo, alle milanesi, vedremo, e poi vediamo anche Roma e Napoli. Ti sei fatto un'idea sulla questione chic? Cioè, è la Juve che fa un cattivo affare scaricandolo, è l'Inter che fa l'affare, è l'Inter che si assume un rischio? Qua si fanno valutazioni che girano molto intorno ad un'incognita che chiaramente è privata, perché non posso sapere, nessuno di noi può sapere che genere di problemi abbia. Ed è anche giusto così, con questo rispondiamo ai centinaia che scrivono. Ma certo, è anche giusto così. Io credo che quando si firmano i contratti ci siano delle precondizioni. È evidente che io un giocatore o una casa la acquisto se l'impianto elettrico funziona o se non è seriamente compromesso. Un giocatore lo acquisto se è perfettamente in condizione. Evidentemente la Juventus era nelle condizioni di dire no, c'è qualcosa che non funziona, quindi il contratto non viene ottemperato del tutto, io Schick al momento non lo prendo. Io spero che il ragazzo possa tornare a giocare molto presto. L'Inter, se così sarà, secondo me l'Inter fa un grande affare perché è davvero forte. Io credo che la Juventus, quando l'ha comprato a inizio mercato, probabilmente pensava di non poter arrivare a qualche altro giocatore, magari Douglas Costa, magari Bernardeschi, chi lo sa, magari Keita. Col senno di poi ha fatto una valutazione, probabilmente quell'appunto su Schick di carattere fisico un po' è stato anche conveniente. Mi piace pensarla così, nel senso che io spero che il giocatore a settembre sia perfettamente in condizione di segnare, perché tra le altre cose è davvero forte. Nell'Inter devo capire come potrebbe inserirsi. Sì, io credo c'è chi dice che alla fine potrebbe andare Schick all'Inter e Keita alla Juve. Io non so, secondo me Keita serve più all'Inter con o senza Schick. Però, ma secondo me lui vuole andare più all'Inter, tra le altre cose. Secondo me lui personalmente, come giocatore, la sua scelta è quella, lui preferirebbe il nerazzurro, però è evidente che, voglio dire, le trattative non è che si fanno solamente sulla base della preferenza del giocatore, ci sono anche le condizioni contrattuali, eccetera. Però sì, anche secondo me sono d'accordo con te, servirebbe più all'Inter, perché mi pare che la Juventus, Bernardeschi, Douglas Costa, se rimane Cuadrado, Mandzukic, se starà ancora sull'esterno, no, però mi pare molto ben coperta da sulle vecchie ali, chiamiamole così. Tanto pochi minuti fa Icardi ha parlato a Nanchino, domani l'Inter gioca contro lo Schalke 04 e ha ammesso di non essere ancora pienamente guarito dalla lesione muscolare che si è fatto nella parte finale della stagione scorsa, e quindi domani non giocherà, e comunque ci vuole ancora tempo prima di rivederlo in piena condizione. Approfitto di Dario Donato. Abbiamo Gianfranco da Verona e Fabio dalla provincia di Piacenza. Gianfranco, vai. Sì, allora dai. Buongiorno intanto. Volevo dire una cosa abbastanza che mi sta su qua davanti, perché è importante, sul giocatore Donnarumma. Sì. Cioè, come si fa un dirigente, che poi parliamo, datemi la possibilità quest'oggi di parlare un attimino sui dirigenti anche, Donnarumma, cioè cedere con un ragazzo di 18 anni dove il Milan l'ha fatto crescere, l'ha fatto nascere, c'è accettare un contratto di 6 milioni di euro. Per me è una cosa pazzesca. Secondo, i dirigenti, che le società non hanno capito che è una figura fondamentale, e questo ve lo posso dire perché prendiamo il dirigente che era al Chievo, Sartori, lo voleva prendere, metterlo dentro nel suo ambito, la Juve, lui non c'è andato, è andato all'Atalanta, sì, e ha creato una squadra, sì, minima, sì, che ha portato una cosa meravigliosa. Quando trovi il direttore sportivo bravo, hai fatto metà delle tue fortune, Dario. Su Donnarumma sono i prezzi di mercato, ragazzi, era in scadenza di contratto, il Milan se l'è dovuto ricomprare. Ma non, Dario, ho capito, si indigna per lo stipendio. Si indigna perché sono troppo, sì. Ma cosa, Giovanni, cosa dobbiamo fare? Il calcio purtroppo va in quella direzione. Tu sei sempre attento alle questioni economiche, lo sai che lo sono anch'io. Effettivamente è paradossale pensare che non c'è probabilmente il 5% delle società di Serie A che chiude i bilanci in positivo, eppure hanno giocatori che sono strapagati. Donnarumma andava in quella direzione perché se fosse andato, non lo so, alla Juventus, al Real Madrid, in qualche altra squadra che sicuramente lo avrebbe voluto, sarebbe andato a prendere quella cifra in più a un procuratore che, con tutto quello che si può dire, è tutto è plausibile, tutto può essere condivisibile, però è bravo a fare il suo mestiere, nel senso che i suoi giocatori hanno sempre strappato, mi pare di capire, le migliori condizioni contrattuali, È vero, da quasi fastidio pensare che un ragazzo di 18 anni che ha iniziato a giocare un anno e mezzo fa, però è così, guadagni 6 milioni e mezzo netti. Però alla fine si è fatto un affare anche il Milan, cioè che non lo perde a zero o a poco. Ma non dimentichiamocelo. Quindi, questo, non allora, dimentichiamelo. Cioè, Donnarumma, se verrà o utilizziamo il futuro o anche il condizionale per i tifosi del Milan, ma se verrà venduto l'anno prossimo o tra due stagioni, avrà un contratto che permetterà al Milan, di incassare 50-60, adesso ha una clausola, vedremo, ma tanti soldi da poter reinvestire. Il Milan ci ha guadagnato perché altrimenti l'avrebbe o messo in tribuna o l'avrebbe perso, rischiato di perdere a zero. Certo. Dai, veloce Fabio dalla provincia di Piacenza, poi salutiamo Dario, c'è il traffico. Fabio. Sì, beh, un saluto a tutti e grazie per la convocazione. Io sono tifoso milanista e volevo intervenire ancora sul dibattito Kalinic o Belotti, quale dei due sia meglio. Chi vuoi dei due? Ma io credo che l'acquisto di uno non escluda l'altro e non mi dispiacerebbe, perché dal punto di vista economico, con i soldi della cessione di Bacca, se riusciranno a cederlo, credo che ci sia l'ingresso appunto del denaro per acquistare Kalinic. E poi dovrebbe rimanere quel tesoretto dichiarato di 60-70 milioni per acquistare tu li vuoi tutti e due. Sì. Anche perché Montella deciderà di giocare con le due punte, con la Padula che è già partito, neanche Bacca in partenza, credo che una rosa di almeno tre attaccanti ci debba essere. Io sottolineo una cosa, fra l'abbondanza e la ridondanza c'è una differenza, c'è anche il rischio, no Dario, di esagerare. Sono perfettamente d'accordo, non penso che possano coesistere tutti insieme, che possa arrivare il Milan dal punto di vista economico ci sta sorprendendo, nel senso che nessuno ha ben potuto capire quale sia il piano industriale di lungo periodo della squadra. I soldi sembrano esserci, ci atteniamo a questo, però non penso che André Silva, Kalinic piuttosto che Belotti possano giocare tutti assieme. Se uno di loro pensa di poter essere un'ottima riserva di giocare l'Europa League, allora anche io sono per la coesistenza, ma vederli tutti in campo mi sembra un po' improbabile. Tra i due scelgo Belotti per fare di un'altra caratura. Ma sì, c'è la grande suggestione, però ne parlavamo prima con Gianni De Biasi. Kalinic è anche quel tipo di giocatore che fa innamorare tutti gli allenatori, chissà perché, magari fa qualche gol in meno, però fa impazzire tutti. Grazie Dario. Sì. Grazie mille, grazie a tutti. Dario Donato, grazie a tutti gli amici di Radio 24. Ciao. Dalla redazione di Premium Sport, siamo un po' in ritardo sul traffico. Scrive un amico: che miracolo, parlate della Fiorentina. Amico, abbiamo fatto un approfondimento anche ieri. C'è chi ci ricorda che i Della Valle hanno preso la Fiorentina fallita a zero, ma in 13 anni di bilanci ci hanno messo 221 milioni di euro e credo solo 4 volte abbiano chiuso in attivo. E quindi questi sono numeri e sono incontrovertibili. Traffico, torniamo subito. Siete tutti convocati. Arrivo, un attimo. Tutti convocati. Monge, crocchette super premium per cani e gatti con carne fresca e pochi cereali. Vi presenta... Tutti convocati. La volontà è veramente stata tanta. La cosa che mi è piaciuta più di tutte è che la squadra è rimasta sempre corta, anche nelle difficoltà. Abbiamo fatto qualche lettura sicuramente sbagliata, però nel secondo tempo c'è stato un momento della gara in cui potevamo andare anche in vantaggio. Dal mio punto di vista c'era un rigore nettissimo. Ma detto questo, ci sta il risultato che è andato, perché poi nel finale abbiamo sofferto un pochino il ritorno del Paris Saint-Germain, ma nel complesso generale la partita è stata molto equilibrata. Questo è il bilancio di Eusebio Di Francesco. Questa notte c'è stato il debutto in tournée negli Stati Uniti della Roma, 1-1 nei 90 minuti contro il Paris Saint-Germain, gol di Marquinhos e Sadiq per il pareggio della Roma. Poi calcio di rigore, ha vinto il Paris Saint-Germain 6-4. Saluto Roberto Renga, ciao Roberto. Buon pomeriggio a tutti. Mi racconti che Roma hai visto? Ma guarda, devo dire che intanto faccio i complimenti a Di Francesco, perché a Eusebio Di Francesco, perché raramente io sento gli allenatori, poi dico: ma porca miseria, c'ha ragione, perché di solito no, buttano, ovviamente cercano di mettere tutto dalla loro parte. E come Di Francesco, non ho visto grossi gesti tecnici, ma è normale in questo periodo. Ho visto un buono spirito di squadra. Io ti dico anche che da amichevoli di questo genere, di questo tipo, mi aspetto, temo soprattutto da parte delle squadre italiane, la goleada degli avversari, perché di solito noi in questo periodo diciamo gli avversari sono più avanti, a novembre diciamo che siamo più stanchi noi. Certo, invece solo ottobre. Questa volta è finito 1-1, perché poi dopo ci sono stati rigori, va bene, lì la Roma perse i rigori, ma insomma è assolutamente ininfluente. Sì, quello che conta è cosa è successo sul campo. Sì, io ti devo dire che sul campo ho visto cose discrete, non bellissime, non pessime, ho visto più o meno le cose che si sapevano comunque, che ci sono alcuni giocatori molto buoni, che a centrocampo alla Roma è molto forte, che dietro lascia a desiderare, che Moreno per esempio si segnala soprattutto per il gesto alla Bresi, alza il braccio, ma non interviene sull'uomo. Sì, che non è una buona notizia perché Baresi no. giocava 20 anni fa. Sì, lo so, era un po' più bravo. Sì, ma credo farebbe fatica adesso a fare il fuorigioco come lo faceva lui. Poi per carità sarebbe sempre fuori classe, Franco Baresi. Ma avercelo però, no, è vero, anche perché allora, come sai, non c'era il fuorigioco attivo e passivo, c'era il fuorigioco e si è visto ed era tutto molto più semplice. Dico che la Roma al momento... appare così come io e te, se ci mettiamo seduti, no, diciamo, ma com'è la Roma? Ma molto forte a centrocampo, dietro con qualche problema, e in avanti adesso con l'arrivo di De Frella è comunque una squadra completa, perché De Frella potrebbe giocare a destra e Sciarabia o Perotti a sinistra e Zecco centravanti. Quindi esagerano i tifosi che sono un po' scettici. Scetticismo, guarda, secondo me è giustificato, perché la partenza con tutte le cessioni, anche al di là delle questioni legate al fair play finanziario, al bilancio e alla scadenza del 30 giugno, effettivamente è stata scioccante. Sì, la partenza è stata di quelle, no, che da lacrime e sangue. Adesso però, se io vado a vedere e anche sento, no, gli amici, quello che mi dicono, sono un po' meno disperati rispetto a prima, perché intanto guardano anche gli avversari. Ci sono i milanisti che addirittura si lamentano se non fanno un acquisto al giorno, ma e comunque si sono fermati al centravanti. Gli interisti non sono felicissimi, perché l'Inter ormai si è fermata agli acquistini al momento. Addirittura si lamentano i juventini perché hanno perso Bonucci. Il Napoli festeggia perché non ha venduto nessuno, perché è un po' questa la situazione in estrema sintesi. Io sono convinto che in questo momento il Napoli sia l'anti-Juve ben più della Roma. Sì, oggi è 20 luglio, anch'io. Oggi 20 luglio, magari il 31 agosto le cose saranno cambiate. Questo lo penso anch'io, però ti dico che rispetto a prima che arrivasse De Frella, che non è un fuoriclasse, attenzione, ma è comunque uno dei giocatori più costosi nella storia della Roma, Battistuta a parte, e che comunque copre quel ruolo di ala destra, anche se lui non è un esterno destro, però ci può giocare, l'ha detto anche Di Francesco e l'ha fatto col Sassuolo. Adesso, se la Roma, e lo farà sicuramente, prenderà un terzino sinistro, in attesa che Emerson il prossimo anno, no, possa tornare se stesso, possa tornare a giocare, è comunque una squadra completa. Mentre prima vedevo dei buchi, adesso la vedo completa, con dei dubbi, con degli interrogativi ovviamente, perché la difesa non mi convince per niente. Se poi va via Manolas, no, e allora ricominciamo con le lamentele. Però Nainggolan rimane, per esempio. Sì, mentre invece però la fatica è capire perché ogni volta si debba smontare il giochino per ripartire quasi da zero. Poi per carità, uno andava ceduto per le questioni di bilancio, però una volta venduto Salah, tu quella situazione l'avevi sistemata. Io mi sarei aspettato da Pallotta, nei mesi in cui più o meno arriva la quadratura del cerchio sullo stadio, che cominciasse una fase 2. Ma sai, lo stadio ancora prima che c'è. Lui dice che farà 10 giorni, ma non si è dimenticato di dire l'anno. Sì, però, qualcosa è successo quest'inverno. Ma intanto è partita anche adesso recentemente una denuncia da parte dei radicali, e poi ci dovranno essere gli espropri, poi adesso c'è l'intervento, no, quello della regione. Comunque diciamo che in ogni caso occorre del tempo. Però anch'io mi aspetto da Pallotta che faccia il presidente, e cioè che non ogni anno venda tutti. Ecco, al momento comunque Nainggolan rimane, però dobbiamo anche pensare che Nainggolan rimane perché a me, da quello che risulta, nessuno ha fatto l'offerta tale da far girare la testa a Nainggolan o alla Roma, perché l'Inter è appesa. Nainggolan rimane, lo diciamo al momento in cui vedremo la foto con la firma. Sì. Sì, però... per il momento noi sentiamo annunci, non abbiamo ancora visto quel gesto compra? Semplicissimo. Lo so, ma chi lo compra? E tu sai che a Milano sono convinti che prima o poi arriverà l'offerta. Però a me sembra che l'Inter sia appesa veramente a Perisic, così vista da fuori, anche da dentro un pochino. Sì, assolutamente. C'è necessità di fare una o due cessioni per poi avere i soldi per fare la campagna, non perché Suning non li abbia, ma perché, lo spieghiamo oramai da mesi, le regole continuano a esserci, anche se tu al 30 giugno hai fatto le plusvalenze e hai chiuso quel capitolo lì, ma poi le regole rimangono. Va bene, io ringrazio Roberto Renga, grazie Roberto. Grazie a voi, buon pomeriggio. Grazie Roberto Renga. Adesso c'è il GR delle 15 al Tour de France, di cui parleremo ampiamente dopo il GR delle 15. 91 km all'arrivo sull'Isoar, cioè via una fuga, senza uomini di classifica, 7 minuti e 40 di vantaggio sul gruppo della maglia gialla. Oggi tifiamo tutti per Fabio Aru. Dopo il GR delle 15 parliamo anche della vicenda della maglia numero 19 di Bonucci. Bonucci o che sì, chi la deve prendere, come funziona dentro uno spogliatoio, chi comanda e chi invece si deve adeguare. Torniamo subito. Bene, allora siamo okay. Tutti convocati. Tutti convocati. Ma proprio tutti. Tutti convocati. Quanto dipendiamo dalla tecnologia nel lavoro e nella vita di tutti i giorni? Sono Enrico Pagliarini e ogni settimana 2024 intervisto i protagonisti dell'innovazione tecnologica in Italia e nel mondo. Tutto quello che devi sapere sui nuovi smartphone, le app, nuovi servizi web e molto altro. 2024 è il programma di tecnologia di Radio 24 in onda venerdì alle 22, domenica alle 13.30 e in edizione podcast con tutte le interviste in versione integrale. Te vuoi stare seduto in panchina a guardare? O vuoi entrare in campo? O vuoi entrare in campo? Ricominciamo tutti ai vostri posti! E andiamo! Tutti convocati. I understand the role of Buffon in history of Italian football and his role as the leader of this football club. So I respect that and first of all I want to learn from him. I want to raise my level. How much I play, it's up to the manager. I'm always at his disposition. I'm ready to play whenever he wants me to. Io credo che possa concludere, credo che si possa dare un altissimo voto al mercato del Milan, se non il migliore del mondo, diciamo il migliore della galassia, perché per ora non mi sembra ci sia una squadra che abbia fatto meglio del Milan. Devo dire che veramente Fassone e Mirabelli hanno messo a disposizione del mio amico Vincenzo Montella qualcosa di esplosivo. Allora, 10 giorni fa Costa Curta aveva detto che secondo lui il Milan non aveva preso grandi giocatori, aveva dubbi su Musacchio, forse meglio Paletta. Adesso dice che il Milan ha fatto la campagna acquisti migliore della galassia. Io non lo so, sospetto che stesse prendendo in giro, ce l'ho, ma magari sbaglio. Allora, 800 24 00 24, fra due minuti parliamo dell'incredibile caso della maglia numero 19 del Milan. Dovete dirmi con chi state, con Bonucci o con Kessié? Chi è che se la deve tenere questa benedetta maglia numero 19? Leggo qualche messaggio che sta arrivando sulla pagina Facebook Radio 24, oppure tutti convocati trattino Radio 24, dove potete seguirci anche in video. Lorenzo Gasparini chiede perché le regole UEFA oggi non valgono per il Milan, semplicemente perché il Milan non è stato recentemente in Europa e quindi il monitoraggio comincerà a partire da quest'anno, e poi ha cambiato proprietà e quindi le stesse regole dicono che può cercare un accordo per avere degli sforamenti e prendersi degli impegni poi per il futuro. Poi Giulio Fazzini con 70 milioni vuole prendere Kalinic e Cuadrado che è sul mercato. Io dubito che il Milan possa prendere Cuadrado dalla Juventus, dubito che la Juventus venda un altro giocatore al Milan dopo Bonucci. Marco Restelli, il Milan prenderà Kalinic e Belotti. Claudio Civardi che mi accusa di essere senza anima per la questione Belotti, Torino e le bandiere che non ci sono più. Io vorrei che Belotti fosse la bandiera del Torino, ma temo che non sarà così. E poi Davide Biamonti non trascura la pista Aubameyang, oppure qualche altra sorpresa tipo Benzema. Secondo me la pista Aubameyang si è chiusa, Morata è andata al Chelsea, ma erano fuori come obiettivi rispetto alle possibilità del Milan, che pure abbiamo imparato sono importanti. Giuseppe da Genova, 800 24 00 24, dai. Buongiorno. Eccoci. Convocato. Grazie. Ma io volevo dire solo questo, che il Genoa adesso è tanto tempo che stiamo riaspettando il nuovo proprietario, no? E sicuramente ci vorrebbe un grande sponsor, non dico grandissimo, ma almeno medio grande. Sì. E allora si potrebbe tornare su una squadra discreta. Sì, secondo me con lo sponsor non diventi una grande squadra, però la media, ecco, diciamo così. E anche soprattutto giusto avere dei dirigenti molto molto bravi che riescono a trovare dei giocatori giovani da rilanciare. Quello sicuramente è una cosa molto difficile. Io credo, Giuseppe, che il primo passo sarebbe avere chiarezza sulla società. Oggi abbiamo letto su Tutto Sport perché ieri c'è stata l'uscita alla ribalta di chi sta cercando di comprarsi il Genoa, Giulio Gallazzi, che ha detto il closing va fatto adesso perché ad agosto poi le distanze potrebbero essere insormontabili. Preziosi sta facendo il mercato. Io non so, la sensazione che ci sia alle viste un cambio epocale nel Genoa, onestamente in questo momento non c'è. Però è anche vero che piuttosto che un salto nel buio, meglio tenersi quello che c'è in questo momento. Pierpaolo da Rimini, Pierpaolo. Buongiorno, grazie per la convocazione. Vai. Io sono un tifoso juventino, però volevo parlare velocemente di due argomenti. Il primo fa riferimento al Milan. Io sono convinto che la benzina sia finita. Secondo me i soldi per andare a prendere l'attaccante, i soldi residui siano pochi. E credo che il Milan dovrebbe fare di tutto per poter prendere Kalinic. Secondo me è l'unico colpo possibile e credo che i tifosi del Milan si siano forse un pochettino, ecco, passatemi il termine, montati la testa. La seconda cosa invece riguarda la Juventus. Credo che la Juve ancora abbia invece un buon serbatoio e mi aspetto che almeno da qui a fine mercato, al di là dei colpi ormai banali, chiusi, cioè già presi in carico, faccia almeno un paio di colpi importanti, sicuramente un grande centrocampista e forse una seconda punta per aiutare il reparto offensivo. Io credo che la Juventus farà un grande centrocampista, farà un esterno che sarà Bernardeschi, che non è ancora stato fatto, e poi io sono scettico sul fatto che non sostituisca Bonucci. Magari mi sbaglio, però secondo me Bonucci va sostituito non tanto dal punto di vista numerico quanto dal punto di vista della qualità, perché oggi la Juventus come difensori centrali ha Rugani, su cui è giusto che scommetta, ha Benatia che però l'anno scorso è stata una riserva, e poi ha Chiellini e Barzagli, e soprattutto Barzagli comincia a non dare più assolute garanzie dal punto di vista fisico di poter fare tante partite e tante partite di seguito. Io sono convinto che debba intervenire lì, e poi credo debba intervenire ancora sugli esterni, pur avendo annunciato ufficialmente oggi De Sciglio. Sergio dalla provincia di Cuneo. Sergio. Allora, buongiorno, grazie per la convocazione. Eccoci. Io sono un tifoso del Toro e volevo intervenire sulla questione di Belotti, dicendo la mia. E purtroppo è vero che non esistono più le bandiere al giorno d'oggi e quindi bisogna forse pensarla un po' diversamente, anche per un discorso che può essere suo personale di ambizione e per un fatto che comunque il discorso che abbiano messo una clausola sul contratto secondo me era fatto per andare incontro a tutte e due le cose, cioè la cessione del giocatore dove la società riesce a prendere dei soldi e il discorso anche se del giocatore che lo lascia poi libero di da una parte di scegliere che cosa fare. Sì, quando c'è una clausola vuol dire che il giocatore è sul mercato o quantomeno la società è nell'ordine di idee che possa partire. Sul fatto di non innamorarsi dei calciatori, io lo dico, capisco, in tanti scrivono il calcio delle bandiere, il calcio del cuore, siete cinici, però purtroppo è così per il Torino sul mercato italiano, è così per i grandi club sul mercato europeo. La Juventus ha perso Pogba, il Milan ha rischiato di veder partire Donnarumma prima del tempo. Aldo Serena, ciao Aldo. No, ciao a tutti voi. Inutile inseguire il calcio delle bandiere, però io ho convocato Aldo Serena per cercare insieme a lui di capire cosa succede dentro uno spogliatoio quando succede quello che sta succedendo al Milan. Allora, vi faccio sentire questo audio di 10 secondi preso credo da Tele Lombardia, dove c'è un bambino che chiede a Bonucci: che numero di maglia avrai? Lui gli risponde il 19, ma se vince la noi 19. Allora che sì. Vediamo se gli chiede il bambino, ma è di che sì, ma anche che sì se l'è chiesto, ma è mio il 19. Aldo, cosa succede in uno spogliatoio? Beh, io penso che chi ha quella maglia deve tenersela, chi arriva dopo, secondo me, deve trovarsene un'altra, anche se mi rendo conto che nel calcio moderno alcuni sono brand, che per Bonucci può essere appunto il 19 un numero, però io dico anche che potrebbe essere un taglio netto con il passato, andare a recuperare un numero nuovo e quindi creare proprio una linea diversa da quella di prima, senza legami neanche sotto questo profilo. Quindi anche se in questo caso arrivano tutti e due, perché è vero che sia firmato 2 settimane prima di Bonucci, però di fatto sono tutti e due novizi dello spogliatoio. Sì, ma ecco, chi è arrivato prima si è presa e è quello che ha i titoli, secondo me, per averla. Sarebbe poco rispettoso, ecco, perché sì, se la società gli imponesse il cambio di maglia. C'è chi scrive: avete imparato, Bonucci è uno che fa casino nello spogliatoio, lo scoprirà anche il Milan. Io credo che il Milan si può anche accollare questo rischio, gli serve la personalità di Bonucci. Devo dire che quest'anno il Milan ha fatto una campagna acquisti sontuosa, ha trovato giocatori straordinari sotto profilo atletico, fisico, da Conti, e che sì, ha quello dell'esperienza come Bonucci. Ho qualche dubbio sul fatto che con immediatezza Montella trovi un gioco con probabilmente 8 nuovi su 11 titolari, non sarà semplice. Certo è che da Champions League sono convinto che sono sicuro che andrà a recuperarla in questa stagione, ma vincere non so. Sì, credo che la Juve sia parecchio distante. Tornando a questa incredibile storia della maglia numero 19, perché poi c'è questo retroscena. L'altro ieri abbiamo raccontato l'amichevole del Milan col Borussia Dortmund. Nello spogliatoio che si trova la sua maglietta con il numero 14 e chiede che gliene venga stampata una con il 19. Questo per dire che anche che sì, ha una certa personalità. Io però credo che alla fine in un grande club decide la società. Prima, Aldo, parlavi giustamente, ci sono anche le questioni commerciali di brand. Insomma, se il Milan si prende Bonucci è anche perché si prende quello che significa Bonucci come immagine, anche legata a quel numero lì. Io lo so che oggi stiamo parlando con come se fossimo tutti cinici. Se fossi Bonucci non lo prendereste. Non andrei a creare problemi se fosse stato libero. Ma perché secondo te può essere preso male dallo spogliatoio in generale questo un atteggiamento magari invece rigido? Da che sì sicuramente, e forse anche da qualche altro. Quindi io non andrei in piedi in un spogliatoio nuovo, anche se sono stato preso per la mia personalità, per la mia forza anche morale, però ecco, non andrei a turbare una situazione che di fatto c'è già, tanto un numero vale l'altro. Insomma, adesso con i denari che prende questo contratto, ecco, io penso che il brand può anche andare in secondo piano. C'è chi ricorda che qualcuno prese l'1+8 all'Inter per lasciare libero il 9 a Ronaldo, credo fosse Zamorano, no? Sì, perché non è la prima volta che poi su un numero di maglia ci sono delle discussioni. Tu hai mai avuto discussioni, no? No, ma io ho giocato spesso, anzi, sempre con l'11, quando sono andato all'evento mi hanno dato il 9. Non ho fatto una piega, nel senso che 9-11 andava bene lo stesso. Però voi giocavate dall'1 all'11, giusto? Cioè, sì, avevate esatto. Ancora la numerazione tradizionale. Ma tu sei d'accordo, ad esempio, che Bonucci, simbolo della Juventus, arrivi e diventi capitano del Milan? Scenario che pare probabile. Non molto. Io penso che ci sia una graduatoria che è data dall'esperienza, quindi ma la personalità ce l'ha lo stesso. Bonucci la metterà in campo, fare il capitano del Milan quando sei stato un simbolo della Juventus fino all'altro ieri non mi sembra tanto giusto. Sì, è anche vero che non è che nel Milan ci siano grandissimi giocatori di quelli storici. Forse potrebbe prendere la Bonaventura quella fascia. Bonaventura, ecco, sì, che è anche quello rappresentativo sotto il profilo della qualità, ma è uno, un giocatore forte che dovrebbe essere tra i pochi a essere titolare del passato. Se tu fossi Montella preferiresti Belotti o Kalinic? Io preferirei Belotti. Belotti perché ha una forza fisica straordinaria, italiano, è un giocatore che ha la prospettiva del mondiale con la maglia azzurra, è un giocatore che non si risparmia, che si spreme fino all'ultima goccia di sudore, quindi io penso che Belotti sia un giocatore da prendere sempre. Sei deluso dal mercato dell'Inter fin qui? Abbastanza, perché l'Inter non si è mossa, ha fatto poco, poi non so se il destino è tanto diverso da João Mario. Insomma, è un Inter che è rimasta alla finestra e che adesso deve darsi da fare come società, perché penso che Spalletti abbia chiesto in maniera che precisa e chiara, prima di andare all'Inter, dei rinforzi di qualità. Voglio vincere a casa, l'hanno presa bene, scrive un amico. Avrei una domanda: secondo voi quando farà scoppiare la terza guerra mondiale con la sua personalità Bonucci? non esageriamo, c'è chi ci ricorda che Bonucci ha il 19 tatuato sul braccio, quindi dovrebbe cambiare probabilmente anche il tatuaggio. E c'è chi dice: finirà che Bonucci farà un bonifico a che sì e si prenderà il numero che vuole. Secondo me finirà così. Ma come ho detto prima, non ti piacerebbe? No, non mi piacerebbe, anche perché è una scocciatura quando tu hai preso una maglia e fare posto un altro, anche se più bravo, se più esperto, così, e titolato come Bonucci. Penso che io la maglia la lascerei 19 a Grazie Aldo. Ciao a tutti voi. Grazie Aldo Serena. Allora, Pietro da Varese. Pietro. Sì, buongiorno. Io voglio fare una domanda molto secca e vorrei altrettanto una risposta secca. Lei farebbe lo scambio Belotti-Higuain? Belotti-Higuain, io per vincere in Europa subito no. Cioè, spiego la mia risposta. Se mi stai dicendo la Juve potrebbe vendere Higuain e prendersi Belotti, io credo che se la Juventus ha in testa che l'anno prossimo è l'ultimo anno di tanti senatori per cercare di vincere la Champions League, io credo sia meglio un profilo come quello di Higuain, che è un profilo più strutturato, con maggiore esperienza internazionale, e quindi mi terrei Higuain, perché io credo che la Juve l'anno prossimo debba, al di là di inseguire il settimo scudetto, e penso che sarà meno facile dell'anno scorso, e già l'anno scorso non è stato semplicissimo, e io credo che insomma la Juve debba a chi come Buffon, Barzagli, in parte Marchisio, forse Chiellini comincia a non avere più tempo, e debba il tentativo di provare ad arrivare a Kiev a vincerla questa Champions, e allora servono giocatori pronti a quel livello, io la penso così, anche se capisco che sarebbe suggestivo e forse sarebbe un meraviglioso investimento portarsi Belotti alla Juventus e rifare su di lui tutto l'attacco. Allora vi faccio sentire qualche voce di Fabio Aru. Ieri, dopo la tappa in cui non è andata benissimo, è scivolato giù dal podio del Tour. Fabio, hai una spiegazione? Spiegazione, oggi ho perso e sicuramente non posso essere contento, ma il Tour finisce domenica, quindi logicamente oggi è una giornata non positiva per me, ma questo è il ciclismo, insomma, bisogna accettare sicuramente anche le giornate in cui si perde qualcosa. Pier Augusto Stagi, ciao. Ciao, buon pomeriggio. Allora, cosa è successo ieri a Fabio Aru? È successo che ha vissuto una giornata difficile, data anche da problemi respiratori. Sembra che il campione d'Italia abbia qualche problemino di catarro, per così dire. Quindi non è facile, soprattutto affrontare le Alpi, se non sei perfetto. Io direi, allora oggi è spacciato? No, perché Fabio ha fatto, secondo me, un piccolo grande capolavoro. Ma non dobbiamo dimenticarci, non per mettere le mani avanti, ma è giusto dirlo, che per Fabio questo è il secondo Tour de France. L'anno scorso è arrivato tredicesimo, quindi quest'anno, se riuscissi a arrivare a 5, secondo me sarebbe ottimo. Sì, avrebbe già fatto un'impresa, anche se ci siamo anche se ci siamo fatti la bocca sul podio, adesso senza sognare la maglia gialla. Certo, assolutamente. Io credo ti dirò di più, che oggi farà tutto possibile, spendo perfettamente che oggi l'ultima tappa di montagna, domani la tappa per attaccanti, diciamo per passi veloci, e poi la pronuncia. Allora, aspettate perché abbiamo qualche problema di collegamento con Pier Augusto Stagi, adesso lo recuperiamo. Prima della fine, per farci raccontare anche cosa sta succedendo in questa tappona che arriva sull'Isoar. Mancano 70 km, c'è via una fuga con 7 minuti e mezzo di vantaggio sul gruppone della maglia gialla di tutti i migliori. Ricontattiamo Pier Augusto Stagi. Giovanni da Teramo, Giovanni. Buongiorno, io sono un tifoso del Milan e volevo esprimere la mia concordanza con Aldo Serena in quanto Bonucci, che è un giocatore del Milan, deve adeguarsi a quella che è la sua nuova storia, quindi non è necessario per forza prendere il numero 19, ma iniziare una nuova storia con un nuovo numero, e non deve neanche porsi nei confronti dello spogliatoio come un leader assoluto, in quanto bisogna rispettare anche i ragazzi di colore tipo Cressier. Sì, però io credo sia stato preso anche per quello Bonucci, Giovanni, cioè per essere il leader di questa squadra. Il leader non si dimostra in maniera mettendosi in prima linea e volendo imporre per forza la propria personalità, ma la personalità si guadagna sul campo, perché giocare a calcio è così. E soprattutto volevo fare una domanda che c'entra poco pure con questi numeri di maglia, sì, di società, essendo abruzzese. Cosa pensate del cambio del procuratore di Verratti, che è passato da Di Campli a Raiola? Io penso che mai intervista come quella di Di Campli al Corriere dello Sport di una decina di giorni fa, dove ha detto Verratti è prigioniero dell'Emiro, sia costata tanto. Costata le scuse di Verratti, che ha dovuto fare quel video spiegando che si dissociava completamente dalle parole del suo procuratore. Ieri poi c'è stato di fatto un licenziamento, perché questo è avvenuto. In tanti dicono va con Raiola perché è l'unico che lo può portare via dal Paris Saint-Germain. Io non ricordo un giocatore che sia andato via da Parigi se il Paris Saint-Germain non fosse d'accordo. Anche quelli di Raiola, ricordo Ibrahimovic 2 estati fa, ricordo Matuidi l'anno scorso, tutti i giocatori di Mino Raiola che volevano andare via e alla fine sono rimasti al Paris Saint-Germain. Pier Augusto, eccoci, dai, ti abbiamo recuperato. Ci sono. Mi racconti come sta andando la tappa? Andando velocissimo, prime 2 ore di corsa a quasi 44 km di media, c'è una fuga in atto di 51 corridori e il fatto confortante è che ci sono 4 compagni di squadra di Fabio Aru all'attacco. Quindi questo vuol dire che, nonostante qualche problemino respiratorio per Fabio, il campione d'Italia cercherà oggi in tutti i modi di lasciare un segno profondo in questo Tour de France, per cercare in tutti i modi almeno di riacciuffare il podio. Io credo che abbia la possibilità di poterlo fare, credo che abbia una condizione non ottimale ma buona, anche perché ottimale non ce l'ha nessuno, credo neanche Chris Froome. Ormai siamo alla fine di questo Tour, un Tour logorante, estremamente duro, difficile, molto controllato, corso a medie veramente vertiginose, quasi folle, imposte soprattutto dallo squadrone Dream Team britannico, il Team Sky, però con la fantasia si può fare molto. Oggi c'è questo deserto verticale che è l'Isoar, una leggenda per il ciclismo, per tutti quelli che amano questo sport. Fabio sa perfettamente che cosa significa l'Isoar per chi ama il ciclismo. Lui su queste strade viene spessissimo ad allenarsi, visto che spesso fa i ritiri al Sestriere, e vuole lasciare un segno. Vuole lasciare un segno importante e profondo in questa corsa. Questa mattina l'ho visto, mi ha detto: non sto come vorrei, ma so quello che voglio fare. E io so che lui è veramente un combattente, uno che l'avete visto ieri, un altro corridore nelle sue condizioni avrebbe preso almeno 3 minuti. Avrebbe mollato. Sarebbe uscito di classifica. Pedalato, come dicono i corridori, hanno pedalato in acidosi solo e soltanto con la testa. Veramente quando ha pedalato con la testa di uno che vuole restare attaccato all'idea di salire su quel podio a Parigi, poi chissà che cosa succede oggi, perché la salita è davvero terribile. Grazie Pier Augusto, ovviamente ci sentiamo domani e tu continui a raccontare per i notiziari di Radio 24 questa magnifica tappa sull'Isoar. Grazie Pier Augusto Stagi. Grazie domani. A voi, ciao ragazzi. Allora io ringrazio Giorgio De Luca, Claudia Schiattone e Andrea Roccabella, tutti convocati. Torna domani alle 15, c'è anche Racing Team domani. Domani alle 14 e alle 15 c'è Racing Team. Ciao. Abbiamo visto abbastanza. Ciao a tutti. Saluti.